Benvenuti alla 13ª puntata di Cialtroni nello spazio. Un saluto da Francesco e Alessandro e un saluto da noi a Marco, che invece questa sera non sarà con noi, questo pomeriggio di trasmissione non sarà con noi a trasmettere. Bene, allora oggi andremo a parlare di un paio di cosette carine e simpatiche. In particolare inizieremo con qualche aggiornamento di sicurezza, di falle che si sono verificate nell'ultimo periodo, e poi andremo a parlare di formati grafici, una cosa che può sembrare molto astratta e teorica, ma che invece è un problema molto comune alle persone che hanno magari una macchina fotografica digitale o che comunque devono scambiare delle foto con degli amici e non sanno mai in che modo salvarle. Ne conosciamo diverse che nelle ultime settimane hanno cercato di contattare Cialtroni nello spazio per appunto chiederci semplicemente come salvare le foto, vero Alessandro? Va bene. Allora, qual è invece il gruppo che ci stai proponendo adesso? Allora, beh, come base abbiamo sempre ormai quella che è diventata la nostra base da ogni trasmissione, vabbè, sono i Chemical Brothers. Comunque, quello di stasera è un gruppo di Bergamo, si chiamano Forest Hill, un gruppo che forse suonerà alla tenda migranti alla festa della radio, insomma ci sono le trattative in corso. Dicono di loro, sono quattro metalmeccanici che raccontano la loro storia suonando in una rock band, fanno un rock all'italiana un po' simile a Litfiba, insomma quel genere lì, comunque molto simpatici e interessante, soprattutto perché questa è la puntata che va in onda prima del 1° maggio e il tema principale delle loro canzoni sono proprio gli ambienti di lavoro, e ci andiamo ad ascoltare proprio il primo pezzo. Con il capo io proprio non vado d'accordo, e già non ho testa per capire quello che sento dentro ormai. Solo per non piangere, non voglio fredde catene su me, strette catene di ferro intorno a questi polsi, mi feriscono l'orgoglio. Volavo, volavo, torniamo in trasmissione. Iniziamo con il primo argomento che avevamo annunciato, ovvero qualche aggiornamento, qualche news di sicurezza. Abbiamo spesso parlato nelle nostre trasmissioni di OpenOffice, ovvero una suite di programmi per la videoscrittura, per anche il calcolo, fogli elettronici, insomma il corrispettivo open source dei più conosciuto Microsoft Office. È uscita recentemente una falla, è stata scoperta una falla all'interno della suite del programma, in cui sarebbe possibile per delle persone esterne eseguire del codice, ovvero un programma sul vostro computer, quando insomma si accorgono che non avete protetto questo. Per risolvere il problema è necessario utilizzare l'ultima versione di OpenOffice, che purtroppo credo non sia ancora uscita in italiano. No, non è ancora uscita in italiano. E comunque insomma non ci sono ancora stati segnalati dei casi di sfruttamento di questo virus, almeno al momento in cui stiamo registrando questa trasmissione. Il problema dovrebbe essere risolto per tutti quelli che scaricano l'ultima versione o scaricano una patch disponibile per l'ultima versione. Gli utenti italiani, Ale, cosa devono fare? Gli utenti italiani devono, sostanzialmente devono installarsi la versione in inglese e aspettare che arrivi quella in italiano. In realtà esiste la possibilità di avere la 1.4 in italiano, però diciamo che si può ottenere compilandola, quindi è una cosa che diciamo gli utenti normali di solito non fanno, e comunque sulle piattaforme Windows è abbastanza complesso. Beh, oltre che insomma segnalare questo problema di sicurezza, che per ora appunto è ancora limitato, non ci sono stati ancora segnalati degli attacchi, è un modo anche per ricordare l'utilizzo dell'open source e la praticità dell'utilizzo dell'open source. In particolare è stata risolta molto rapidamente questa falla, molto più rapidamente di quanto è accaduto in passato con programmi della Microsoft, che sono un po' i più diffusi. Tra l'altro in questo periodo è stata pubblicata proprio la notizia che in questo mese, in aprile, Microsoft farà uscire 8 aggiornamenti tra sistema operativo, pacchetto Office, eccetera. Da notare la differenza tra dei due metodi di gestione delle patch o comunque delle correzioni. Mentre nei prodotti open source, quando viene trovata una falla, viene comunque segnalata ancora prima di avere la patch, quindi viene sempre avvisato l'utente che il suo programma potrebbe essere difettoso in alcune parti. I prodotti commerciali o comunque la Microsoft preferisce segnalare questi errori soltanto quando ne ha una correzione disponibile, quindi diciamo limitando un po' i danni d'immagine, perché dice: guarda, abbiamo scoperto l'errore ma sappiamo anche come risolverlo. In realtà non si sa da quanto l'errore è stato scoperto, e questo in alcuni casi, ad esempio l'anno scorso più o meno in questo periodo, ha portato un gran quantitativo di danni attraverso il virus MS Blaster, che sfruttava una falla conosciuta da Microsoft, ma per cui Microsoft non aveva ancora prodotto la patch e di cui aveva tenuto all'oscuro gli utenti. E il virus è stato particolarmente impegnativo, in Italia ha bloccato le poste, per un certo periodo il sistema interno delle ferrovie, insomma è stato parecchio pesante. Comunque, un'altra cosa da segnalare è che questo problema di OpenOffice sia solo utilizzando dei documenti Word. Certo, ovviamente. Esatto, quindi insomma, giusto per spiegare, questo è anche una conseguenza del fatto che i documenti Word, cioè il formato doc, chiamiamolo così, anche se insomma non è esattamente la cosa più propria del mondo, i documenti, se voi innanzitutto il consiglio che ci sentiamo di dare è: se ricevete appunto dei documenti di Word, non aprite scriveteli se non siete assolutamente certi della persona che ve li ha dati, e anche se siete certi della persona che ve li ha dati, se questa persona vi manda un'email, è italiana e vi manda un'email in inglese con allegato un documento Word, insomma, molto probabilmente è un virus che ha mandato, che ha generato degli indirizzi casuali rubati da una rubrica di qualche vostro amico. Quindi, come spesso funzionano i virus, se voi ricevete un'email da Giovanni, può anche essere che in realtà il computer di Paolo sia stato infettato, abbia preso la rubrica di Paolo in cui c'erano il vostro indirizzo e quello di Giovanni, e ha falsificato un'email, diciamo così, utilizzando il vostro indirizzo e quello di Giovanni, uno come destinatario, uno come emittente, mettendoci un contenuto casuale o ricavato da vecchie mail. Ecco, un vantaggio il fatto di vivere in Italia e di conoscere principalmente magari persone italiane è proprio che non ci aspettiamo tipicamente dei documenti I love you da persone italiane fidate, insomma, che conosciamo. E comunque questo sottolinea ancora la pericolosità del punto della doc, chiusura del formato anche. Sì, ma più che della chiusura, che è, diciamo, vabbè, insita nella tipologia di formato proprietario. Il problema sta proprio nella scelta di Microsoft di poter includere all'interno del file punto doc del codice, ovvero delle parti, come se fossero un programma, quindi la possibilità di eseguire comandi come ad esempio copiare file, cancellarli, accedere a parti del disco, cioè insomma tutta una serie di funzioni che non hanno nulla a che vedere con un documento, dove uno di solito scrive semplicemente le informazioni del documento, ma che possono essere utilizzate in maniera invasiva nel file di OpenOffice. Questa cosa non si può fare proprio perché nel file non possono essere contenute questo genere di informazioni. Altra, diciamo, informazione o considerazione a latere riguardo queste patch, diciamo questo mese di aggiornamenti su open source e i prodotti Microsoft, è interessante vedere anche un'altra politica piuttosto scorretta da parte di Microsoft. Dal 12 di aprile non è più possibile evitare di installare Service Pack 2. Innanzitutto magari spieghiamo che cos'è il Service Pack, ovvero un insieme di patch di sicurezza sostanzialmente che vengono rilasciate con cadenza annuale quasi, di solito. Sì, il Service Pack, diciamo, racchiude una volta all'anno, ogni anno e mezzo, tutte quelle patch che sono state rilasciate in quell'arco di tempo, comunque le principali falle di sicurezza che sono state rilasciate in quell'arco di tempo, più tutta una serie di aggiornamenti che Microsoft decidere di includere a suo piacimento e che non sono scorporabili. Il discorso qual è? È che il Service Pack è disponibile già da settembre dell'anno scorso, quindi insomma è un bel po' che è in giro, però molte, soprattutto negli ambienti aziendali, molte aziende comunque hanno deciso di non installarlo perché si è dimostrato incompatibile con una serie di programmi o con una serie di hardware, incompatibilità conosciute e riconosciute da Microsoft. Ma per cui Microsoft non ha poi posto rimedio. I vari produttori di hardware o di software hanno dovuto smazzarsi le telecompatibilità e cercare di risolverle, alcune non hanno ancora risolte peraltro. E il problema è che dal 12 di aprile non è più possibile togliere l'aggiornamento automatico al Service Pack. E il che significa che sul vostro computer dovete stare collegati, se non avete una connessione a internet veloce, quante ore più o meno, Ale? Ma la lunghezza è più o meno, considerate che il Service Pack è grosso 250 mega, più o meno 260, una cosa del genere. Quindi per un utente con connessione modem tradizionale è praticamente impensabile sperare di arrivare in fondo al download. Sì, esatto. Io penso che possiamo sentirci di consigliare di comprare una rivista che costa 4-5 euro mediamente, che nel CD incluso molto probabilmente, insomma, guardate sulla copertina, ci sarà incluso il Service Pack, lo installate e poi continuate a utilizzare il vostro computer, a aggiornare il vostro computer senza troppi problemi, vero, probabilmente. Vero è che se viene comunque scaricato in piccoli pezzettini, quindi diciamo che poco alla volta viene scaricato il tutto. Il problema è che esatto. Essere, anche perché essendo il pacchetto di aggiornamento principale è quello che viene scaricato per primo, quindi tutti gli altri verranno scaricati solo finito il Service Pack 2. Questo vuol dire che se c'è un aggiornamento recente come quelli appunto di aprile, verrà scaricato magari a maggio o fine di maggio, i primi di giugno. Un'alternativa possibile è passare a Linux. E andiamo a sentire il secondo pezzo dei Forest Hill. Dopodiché andremo a parlare di formati grafici, in particolare di GIF, JPEG e TIFF e soprattutto PNG. Lo scettro del tuo potere lo giochi ancora in chi dice regina che uccide e quando uccide. L'universo della tua follia che dirige la via, tu menti e poi ridi, tu menti e ridi. Non muovermi contro le armi, capisci bene, io non posso difendermi. Sei tu la ragione che vuoi, ma regina che uccide. Giro intorno e vedo gente indifferente, ai ben pensanti non bastano parole, getto all'angolo le cose della mente e sei regina potente. Non muovermi contro le armi, ma ora sai che posso difendermi. Sei tu la ragione, ho ucciso la regina, se ti schiaccia ogni giorno e si diffonde lungo le vie. Tu uccidi la tua regina se vuoi. Col suo inganno si insinua nel profondo, ti colpisce nel cuore ogni giorno. Ora basta, basta parlare ancora, voglio un po' agire, la regina mi uscirà. Lo scettro del tuo potere lo giochi ancora in chi dice sei regina e mi uccidi. Tua follia non è pari alla mia, regina, io ti ho ucciso. Non muovermi contro le armi, sei regina, esaneme ormai. Io ti uccido se vuoi col mio cuore, ma dai. seconda parte della trasmissione ci dedicheremo ai formati grafici, cercando in qualche modo di dare dei consigli su chi si trovasse a dover utilizzare, sono sempre più le persone che devono farlo, delle spedire magari via email delle immagini, cercare di capire un po' come funziona il salvataggio delle immagini. Io partirei proprio, Alessandro, se sei d'accordo, su come viene costruita un po' un'immagine salvata sul computer, e in particolare prima di introdurre la compressione. Allora, un'immagine è sostanzialmente una serie di punti. Per un computer sono una serie di punti, e ogni punto può essere descritto con il suo colore. Questo è una maniera più, diciamo, più brutale, detto anche raster, che viene proprio fatto con l'utilizzo di colore primario, quindi il diciamo il valore di quanto blu c'è, quanto rosso c'è. Esatto, sì, vabbè, poi i metodi possono essere diversi, comunque sostanzialmente il meccanismo è quello: un numero n di punti per descrivere l'immagine, e per ogni punto viene assegnato un colore che è un numero più o meno grande a seconda del numero complessivo di colori dell'immagine. Quindi vabbè, 24 bit di solito per immagini a colore naturale. Quindi diciamo un'immagine, per esempio una fotografia, che contiene diverse sfumature, un cielo ad esempio che contiene diverse sfumature, se venisse memorizzato punto per punto, sarebbe necessario, insomma, più o meno facilmente calcolabile, che l'intero set dei punti corrisponderebbe alla dimensione dell'immagine. Ovvero, se noi vogliamo salvare un'immagine di 600 pixel per 480 pixel, ha una grandezza fissa. Ha una grandezza fissa, esattamente, che è il prodotto appunto dei 600 punti per 400, che sono la base e l'altezza del rettangolo, per 3 byte, che è la dimensione appunto di ogni punto per colore naturale. Quindi fate voi il conto, comunque sono qualche mega. Allora, quindi se noi vogliamo utilizzare una fotografia, se la vogliamo salvare e spedire a un amico, ci ritroviamo a dover utilizzare delle fotografie che sono molto grosse e molto difficilmente gestibili. A meno che non si usano appunto dei formati compressi, ovvero che utilizzano un modo diverso per descrivere le immagini, che non è appunto questo metodo brutale di assegnazione diretta per ogni punto, ma analizzando l'immagine che inserite, tenendo conto di alcune caratteristiche delle immagini. Ad esempio, Zan faceva prima l'esempio del cielo, è molto probabile che vicino a un punto azzurro ce ne sia un altro azzurro, oppure che gruppi di azzurro si assomigliano e siano solo delle piccole variazioni. Adottando queste tecniche, ovviamente si parla di algoritmi matematici, evitiamo di entrare nei dettagli, comunque più o meno queste sono le tecniche che utilizzano tutti i vari formati. Utilizzando queste tecniche comunque è possibile comprimere notevolmente un'immagine. Ad esempio, col metodo che abbiamo descritto prima, un rettangolo completamente nero occupa la stessa dimensione di uno con un sacco di colori diversi. Con i metodi compressi invece un rettangolo nero occupa pochissimo, praticamente solo l'informazione punto nero moltiplicato per base altezza. Perfetto, allora magari diamo anche uno sguardo a quali sono i formati più diffusi, visto che la maggior parte dei nostri ascoltatori conosce già che cos'è internet. Parliamo delle immagini che troviamo principalmente su internet. Si dividono in due tipi, direi: innanzitutto le fotografie e le immagini invece con pochi colori, che di contorno, di più, esatto, più a dei disegni, chiamiamoli così. Quindi facciamo una distinzione tra le foto e i disegni, che vengono utilizzati soprattutto nei bottoni. Dove preferisci partire? Ma direi innanzitutto che internet ovviamente pone la problematica di fornire delle immagini leggere, perché durante la navigazione uno può aspettare che venga scaricata un'immagine da qualche mega. Partiamo quindi da quelle piccole, dai vari loghi, immaginette, eccetera. A molti di voi sarà capitato, per esempio, di tentare di scaricare un'immagine che vi sembra carina dentro un'immagine web, e poi nel tentativo di stamparla magari su un foglio A4 ottenere dei risultati pessimi. Il problema è che si usano appunto risoluzioni piccole e con delle buone compressioni. Ad esempio, molto usato nel web è il JPEG, che è stato uno dei primi algoritmi di compressione standardizzati. Quindi le immagini che finiscono per ilunga PG, JPEG, oppure JPEG, comunque il formato più usato è JPEG, JPG appunto. È un formato appunto standardizzato nell'84, che ha subito poi delle variazioni. Utilizza un metodo di compressione che viene definito in gergo tecnico lossy, ovvero perde delle informazioni nel fare la compressione, e questo è purtroppo lo svantaggio di questo genere di formati di compressione. Cioè, se voi prendete un'immagine e la salvate in JPEG, lui fa un lavoro sull'immagine per cui è impossibile tornare alla versione originale. Quindi, inoltre, se modificate l'immagine e la risalvate, perderete sempre più informazione, quella che avete perso la prima volta più quella che perdete la seconda volta. Quindi, insomma, tornando all'esempio di prima della fotografia di un cielo, sostanzialmente il JPEG utilizza questo algoritmo di compressione per salvare il cielo non in tutte le sue sfumature di azzurro puntino per puntino, ma in, diciamo così, ad esempio ogni 5 puntini, tanto l'occhio umano tendenzialmente non si accorge delle molto piccole variazioni. Delle piccole variazioni, soprattutto quando sono molto simili, come possono essere appunto le sfumature di un cielo, e quindi noi non ci accorgiamo di questo finché lo salviamo una o due volte con una diciamo così uno standard di compressione decisamente magari attorno all'80%. Salvarlo una volta non cambia molto. Questo però apre un po' di questioni sulla possibilità di lavorare su delle JPEG, che sono tra l'altro il formato più utilizzato dalle nostre macchine fotografiche digitali, quelle che sono attualmente in commercio. Quindi cosa succede? Se voi fate una fotografia, la scaricate sul vostro computer, sarà molto probabilmente già in JPEG. Voi volete lavorare su questa fotografia, non conviene tenerla in JPEG. Risalvarla? Conviene, insomma, lavorarci sopra salvandola in un formato che non sia con questo tipo di compressione, e magari tornare in JPEG quando la si vuole spedire a un amico, o quando si vuole spedire a un'amica, o appunto quando si vuole utilizzare per il proprio sito internet. È veramente sconsigliabile lavorare su un'immagine anche solo per togliere gli occhi rossi o sistemare un attimo la luce e continuare a salvarla in JPEG. Tra l'altro, una cosa che non tutti sanno è che molto spesso i programmi di grafica, anzi tutti i programmi di grafica, quando si fa clic su salva con nome, se si vuole salvare in JPEG c'è l'opzione per decidere di che qualità salvare. Quindi l'immagine finale deve essere salvata magari con una qualità attorno all'80-90%, assolutamente necessario nei passaggi intermedi o non utilizzare JPEG del tutto, che sarebbe la cosa migliore, oppure tenere una qualità del 100%. Un esempio dei vari risultati che si possono ottenere con le diverse qualità c'è sul sito di Wikipedia, la voce JPEG, e ci sono proprio quattro immagini, la stessa immagine in quattro versioni, al 10, al 50, al 90 e al 100, e le differenze si possono notare anche ad occhio nudo, almeno tra le prime tre. Difficile notarle tra il 90 e il 100%. Infatti le immagini JPEG solitamente tengono una compressione dell'80-85%. Passiamo allora anche all'altro formato di cui stavamo parlando prima. JPEG non è un formato libero, e neanche il formato di cui andiamo a parlare adesso. L'ultimo formato di cui parleremo invece è un formato libero. Adesso parliamo di GIF, che sono le immagini che tipicamente vengono utilizzate, il formato che viene utilizzato per salvare delle immagini che contengano pochi colori, quindi tipicamente i banner di un sito internet, tipicamente un disegno fatto a pennarelli ad esempio. fino a 256 colori. Non sono assolutamente adatte a salvare delle fotografie che invece contengono milioni di colori. La GIF ha delle caratteristiche molto interessanti, in particolare molto utile per un sito internet è il fatto di poter utilizzare delle GIF animate, ovvero una serie di immagini una dietro l'altra che occupano lo stesso quadrato sullo schermo e che vanno in rapida successione, quindi permettono di costruire attraverso programmi che sono anche tramite GIMP, ad esempio, di cui abbiamo già parlato nelle altre puntate, o comunque di programmi più adatti, permettono di ottenere i famosi banner animati o comunque delle cose carine, le frecce che si muovono sul proprio sito internet o comunque delle cose di questo tipo. Un'altra caratteristica molto importante delle GIF è la possibilità di scegliere un colore come trasparente. Quindi ad esempio si può utilizzare un'immagine che occupi un quadrato di 100 pixel per 100 pixel e decidere che lo sfondo di quell'immagine, che può essere per esempio, non lo so, la prima cosa che mi viene in mente è una falce martello, ad esempio noi prendiamo una falce martello, la mettiamo in un rettangolo di 100%, coloriamo la falce martello di rosso, perché tipicamente si fa così, e decidiamo che lo sfondo non abbia colore, di modo che noi possiamo utilizzare questa immagine rossa, in cui viene colorato di rosso solo la falce e il martello, su un sito che ha uno sfondo bianco, uno sfondo nero, uno sfondo azzurro o che dir si voglia. Lo spazio occupato nella pagina sarà sempre lo stesso, ma l'illusione all'occhio sarà di avere semplicemente la falce e il martello e non un'immagine quadrata. È un trucco per ovviare al problema che nei calcolatori le immagini possono essere solo dei rettangoli. Quindi se volete fare un'immagine che invece è un cerchio, dovete prendere un rettangolo e fare la trasparenza intorno al cerchio. Il GIF, appunto, abbiamo detto, è utilizzato molto per le immagini piccole, proprio perché il JPEG in questo caso non è molto efficace. Se provate a salvare un'immagine piccola in JPEG otterrete dei risultati pessimi, proprio perché l'algoritmo che cerca di ridurre il numero di punti tenterà di ridurle su un numero troppo piccolo di punti, togliendo probabilmente la possibilità di comprendere l'immagine che state salvando. Ecco, c'è da dire che il JPEG ad esempio non ha la possibilità di togliere lo sfondo, non ha la possibilità di mettere più immagini all'interno della stessa, creando quindi un'animazione. L'animazione no, supporta nelle nuove versioni, supporta il canale alfa, che è la trasparenza, quindi no, quello è stato inserito, come è stato inserito tra l'altro nella maggior parte di fronte a Alessandro no, come è stato inserito nella maggior parte dei formati grafici della prima generazione o comunque delle prime generazioni, come esigenza naturale, proprio dovuta al fatto che non appunto, le immagini devono essere dei rettangoli e questo è l'unico modo per ovviare al problema. Quindi GIF e JPEG, dicevamo, sono i due formati più utilizzati assolutamente da più tempo in internet. C'è da augurarsi che non sia così per sempre, perché ci sono delle valide alternative. La valida alternativa è PNG, ovvero un formato che cerca di accomunare, comunque di trovare una soluzione ai limiti che avevano appunto questi formati. È ovviamente più recente, del 94, quindi ha una decina di anni in meno rispetto ai suoi predecessori, e è un formato molto interessante perché ha un altissimo livello di compressione ma non perde informazioni. C'è un formato che si può lavorare senza perdere nessuna informazione, quindi fare più salvataggi. Lavora molto bene anche sulle immagini di piccole dimensioni, quindi può essere tranquillamente usato come sostitutivo del GIF, ma anche del becero formato ICO usato da Microsoft per le icone, che è veramente una cosa terribile. Però soprattutto contiene un algoritmo di compressione che non è registrato, cioè è pubblico, e ci si può insomma aspettare che questo permetta anche magari dei miglioramenti poi in futuro rispetto a quello che è già, anche se veramente già le qualità sono veramente ottime. Le immagini supportate sono a 24 bit, quindi milioni di colori come le JPEG, e quindi non ci sono i limiti che dicevamo del GIF, che ne supporta solo 256. È di disponibile per tutte le piattaforme, non è una cosa da poco, anche se anche GIF e JPEG sono disponibili su, su tutte le piattaforme. E c'è il supporto sia per le immagini trasparenti che per le immagini interlacciate, quindi anche per le immagini animate. E esistono anche altre opzioni che non sono presenti negli altri due formati, che permettono di ottenere dei particolari effetti di trasparenza. Purtroppo non è ancora uno standard così diffuso, perché insomma, per motivi storici più che altro. Esattamente, beh, considerando che i formati grafici hanno avuto anche loro la loro bella battaglia durante gli anni 80-90, il PNG ha avuto una serie di difficoltà a entrare soprattutto all'interno dei browser. L'Internet Explorer praticamente l'ha incluso solo in maniera stabile solo dalla versione 5. Sarebbe interessante se è stata obbligata a includere. Sostanzialmente perché cominciava a diventare molto molto diffuso il PNG, molto diffuso nel senso molto usato, ovviamente era ancora il JPEG come lo è ancora oggi. Ed è comunque innegabile la netta superiorità del formato rispetto agli altri. Ricordiamo che PNG sostanzialmente ha una risoluzione pari a quella del GIF, quindi una qualità dell'immagine pari al GIF, e una dimensione invece pari a quella del JPEG, quindi che è più o meno un millesimo della dimensione reale dell'immagine. Quindi è sostanzialmente il mix delle caratteristiche migliori dei due formati. Quindi diventa per forza lo standard di fatto. Inoltre dal 2004 è anche disponibile la versione APNG, che permette di creare delle animazioni esattamente come le GIF animate. Questa purtroppo è ancora poco diffusa, soprattutto perché è nel tardo 2004, quindi si parla dell'anno passato. E anche per oggi abbiamo finito. Siamo giunti alla conclusione anche senza Marco oggi in questa puntata, anzi ne approfitto per salutarlo subito e vai con la sigla, direi. Avete appena assistito alla 13ª puntata di Cialtroni nello spazio. Ricordiamo il sito www.circolab.net/progetti/cialtroni nello spazio, comunque seguite il link sulla destra. Atteniamo sempre le vostre email, come vedete rispondiamo a chi ci fa dei quesiti, quindi scrivete.